Friuli nel mondo, 155esima trasmissione dedicata agli emigrati. Festival della canzone friulana 1966. Nell'incantevole cornice del Parco Giacomelli di Pradamano si è svolto, nelle serate del 24 e 25 luglio, il Festival della canzone friulana moderna, che ha registrato, come nei decorsi anni, insieme con una buona e qualificata partecipazione di compositori e parolieri e naturalmente di cantanti dilettanti, un notevole afflusso di pubblico. L'interesse e l'attesa della manifestazione erano del resto resi legittimi dal fatto che essa ha inteso anche quest'anno presentare al pubblico un mazzetto di nuove e originali canzoni. Poiché, se è vero che nuova è risultata nei componimenti presentati la forma dello spartito musicale, è altrettanto vero che sotto l'aspetto dell'ispirazione tale forma non ha segnato, né lo poteva, a meno di mancare ai presupposti del festival, marcate fratture con l'ambiente e con la tradizione canora della nostra terra. Vi presentiamo pertanto, cari amici radioascoltatori, un primo gruppo di canzoni delle due serate. Ascoltate di Lelo Cantoni e Dino Sala la canzone dal titolo Voglins di Stelis. Canta Fiorello Agliata con l'orchestra della canzone diretta da Franco Russo. Calviot lumins di stelis a florit dignot sul mar ale un voli che devente de pincils qui viene là lumins voglins in pin a trimita al cil sul la vita resta anche da scura le flamme clare la sentirò lusa rings dal mare la luna versi l'ave par slusi quale gnot la tiare grande e ye dute disclari quale gnot la tiare grande e ye dute disclari. Quale gnot la tiare grande e ye dute disclari. Quale gnot la tiare grande e ye dute di sclari. Nell'interpretazione di Dino Furlanetto e con il quintetto I Gabbiani, diretto da Antonio Genovese, ed il complesso vocale di Olinto Contardo, eccovi ora la canzone dal titolo Rispuint Primavere di Pietro Someda De Marco e Ottavio Paroni. Cosa di prima abril al noi tambor cabe solo tu ci la su te stelle che ci mi ridi le palagi une andebra alisco i vieni che pare me Ave Marie è il titolo del componimento di Ettore Kreighero e Pippo Sormani, con la voce di Gino Forgiarin e con l'orchestra diretta da Franco Russo. Sere sul dur lavor o s'intorna la nostalgia, pensi alla mame, pensi al paese, a che ci asute la cade il mio be. Ti prego, Ave Maria, che di lassù io sogni dolore, fammi tornare, o vuoi la via, la de me sin dal mio amore, lontan de me valade, dal cil furlan, dall'aiar così buon, noi è più i vite, no puoi restare tra che montagne, io dimmi a tornare. Tu sai come tormenti, con che dolore calmi rovine il cuore, le dur patì, c'è in c'è speranze. Ferme il destino che mi slontane dal Friul. Ti prego, guardimi via di queste tiere che non mi ha cresciuto, se noi muri di nostalgie. Ave Maria. Tormenti con che sdolor calmi rovine il cuore, le durpati cence speranze, ferme il destin che mi slontane dal frio. Ti prego, cuore ti mi viene, di che ste tiene, che non mi ha cresciuto, se noi mu di nostalgie, Ave Maria, Ave Maria. Grazie. Ed infine Altorne l'emigrant di Pietro Tuan e Giovanni Securo. È la canzone prima classificata del festival ed è interpretata da Adriano Tuan con l'orchestra di Franco Russo. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.